Allora, io vi do il benvenuto a questa serata particolare che è stata ideata da Marco Pugliese col Piccolo Teatro, con Vanessa Vincenzi che è la presidente qui con noi questa sera, Gerardo Zacchino che con lei darà vita e voce ad alcuni passaggi interessanti di una conferenza che si presenta anche in maniera molto vivace perché riguarda lo spionaggio. Tempo fa parlavo proprio con Marco Pugliese, che è già venuto altre volte nella nostra biblioteca e organizzando delle serate sui temi sempre anche spesso legati alla storia moderna e contemporanea e agli aspetti anche così particolari dello spionaggio, dell'intelligence, portando qui anche diciamo degli autori molto di calibro anche interessante. E questa sera invece il mix è diverso perché viene interpretato, spettacolarizzato e veicolato in una maniera nuova il contenuto di una conferenza di carattere storico. Vedete scorrere anche delle immagini dietro della vecchia Bolzano e niente, insomma, parleremo di spionaggio. Tempo fa con Marco avevamo sentito e l'avevo chiamato perché c'è un podcast su Rai Play Sound che si è dedicato a tutte le spie internazionali, quindi questo è un argomento che nella storia moderna e contemporanea va per la maggiore e qui in biblioteca ancora una volta siamo innovativi, ma soprattutto ecco, presentiamo delle cose più gustose e succulente con l'aiuto poi di due attori, in questo caso appunto del Piccolo Teatro di Merano, Mario Tartarotti, che spero collabori con noi ancora per tante altre cose, altre iniziative e diamo vita alla cultura anche in questo modo. Grazie a voi quindi, grazie al Piccolo Teatro, grazie a Marco Pugliese e grazie al nostro pubblico che è qui con noi. Colonnello Von Trapp, la scongiuro, Josef è in pericolo. Signora Agathe, si calmi. Soprattutto non mi chiami colonnello. Va bene, Alfred, ma ascolti. L'ascolto, venga in ufficio. Lo conosce Giulio? L'italiano che lavora alla stazione? Certo, chi non lo conosce? Ha affari qui da noi. Beh, lui è... Lui è? Lui è una spia. Lo ha confessato mia sorella. Loro sono intimi. Lui non vuole tornare in Italia. E tutto questo cosa c'entra con Josef? Josef è sul confine italiano. Non mi scrive da giorni. È normale. Ci sono le grandi manovre. Una donna del suo rango dovrebbe saperlo e curarsi delle rede che porta in grembo. Appunto per questo sono qui. Le dico che l'Austria attaccherà. Ho paura che nostro figlio non vedrà mai il padre. Attaccherà? Ma Agathe, siamo alleati degli italiani. Anzi, li aiuteremo con il terremoto e manderemo una divisione in loro aiuto. Buonasera. Io ho fatto fare questa introduzione perché questo dialogo che avete appena ascoltato in realtà deriva da un racconto che mi fu fatto in famiglia, quindi non è una cosa propriamente inventata di sana pianta, ma è un piccolo aneddoto che mi fu raccontato da un mio zio e che appunto trattava di un argomento realmente dibattuto anche dagli storici e dalla storiografia, ovvero che ci fosse nelle intenzioni dell'Austria di attaccare l'Italia durante il terremoto, quello di Messina, e quindi quel terremoto distruttivo di inizio secolo scorso. E questo palazzo, che adesso ho fermato le foto, questo palazzo è il palazzo della Cassa di Risparmio, quindi dove questo ipotetico dialogo, io dico ipotetico perché è chiaro che io l'abbia ricostruito con nomi fasulli inventati, anche se un paio di nomi ce li avrei avuti, però non ero sicuro della vera genuinità e bontà, e la persona che poi mi ha riconfermato più o meno questo dialogo è anche deceduta, quindi non avrei potuto comunque fare un'opera di ricerca storica oltre a qualcosa di orale che invece mi è stato passato. E questo episodio è importante perché fa capire quanto il mondo spionistico, quindi tutto quello che oggi noi chiamiamo intelligence, con questa parola un po' più moderna, ma che in realtà è antichissima, perché lo spionaggio nasce di fatto con la storia del mondo e con la storia dell'uomo in realtà, nasce e prospera durante l'epoca romana. Furono i romani tra i primi a utilizzare spie proprio a livello professionale, quindi pagavano delle persone che dovevano fare dei rapporti, che oggi vengono chiamati report, e arrivando fino ai giorni nostri, dove appunto le tecniche sono cambiate, cioè non si fa più come un tempo solo analisi da parte di fonti, come si dice, occulte, cioè una persona che si incastra all'interno della società, quindi come succedeva, per esempio gli esempi più famosi sono quelli di James Bond, dove lì ti fa proprio la spia classica, cioè la persona che si inserisce nel tessuto sociale e che manda di tanto in tanto dei rapporti su svariate questioni. Ecco, questo in epoca moderna si fa, ma si fa meno. Adesso si utilizza lo spionaggio a livello cibernetico. Infatti fa un po' sorridere che proprio in questi giorni ci siano degli annunci di attacchi alle istituzioni italiane, perché di solito questi sono attacchi che non si annunciano. E quindi il sistema di spionaggio migliore è quello che non viene nominato. Infatti tra i peggiori servizi segreti al mondo abbiamo la CIA, che tanti pensano che sia un servizio segreto che funziona molto bene, in realtà fa molta acqua e spesso è anche colpa di Hollywood, perché qualcuno a Hollywood le informazioni ai registi le ha date, e quindi le tecniche usate dagli Stati Uniti in certi teatri di guerra sono state poi analizzate da chi fa terrorismo internazionale e che è riuscito poi a bloccare determinate questioni. Per tornare all'Italia, noi abbiamo dei servizi che sono invece di ottimo livello, anche perché sono poco chiacchierati. L'unico problema che abbiamo avuto nel nostro paese nel corso degli anni sono le deviazioni, cioè questi servizi segreti, lo abbiamo visto nella guerra fratricida tra Andreotti, Craxi e compagnia, dove ognuno pareva aver amici, conoscenti e apparati all'interno di un particolare pezzo del servizio di intelligence italiano. Quindi si è parlato tanto di Gladio, addirittura Gladio è stata spostata completamente a destra, quando in realtà per entrarci non doveva aver avuto a che fare con il fascismo, per esempio. Questa è una delle poche cose che vengono dette poco. E in realtà pare che fosse appunto Andreotti a menare il can per l'aia, come si dice, con Gladio, quindi non propriamente una persona di destra. E poi c'era il famoso Anello, che era un servizio che era trasversale, e pare che appunto questo servizio abbia avuto a che fare in tragedie più o meno torbide. La cosa importante, adesso non sarà il tema di questa conferenza, lo saranno altre conferenze che verranno concentrate più su questi personaggi. Di Pasolini avevamo parlato prima della pandemia, infatti questa conferenza nasce anche da quella, però Moro, Pasolini, Enrico Mattei e anche lo stesso Craxi in parte furono persone che ad un certo punto dovettero fare i conti con degli apparati che probabilmente erano più forti di loro. Quindi Pasolini addirittura lo scrive in petrolio, scrive questo romanzo dopo che ha ricevuto un plico che non riuscirà mai a dare a Oriana Fallaci, la quale, quando morì Pasolini, fu una delle poche persone che disse: no, guardate che l'hanno ammazzato non per la questione delle sue tresche, eccetera, come invece i giornali avevano fatto credere, e come lo stesso Partito Comunista cercò di far passare, perché era molto inviso al Partito Comunista Pasolini, ne fu anche, lui litigò spesso con chi appunto gestiva in Italia quel settore, e paradossalmente da quel delitto poi ci furono i semi che portarono al delitto Moro. Quindi all'interno di tutto questo, perché petrolio? Perché il petrolio non è tanto una metafora, ma è perché l'Italia voleva passare da sola determinati confini, cioè voleva avere un'autonomia di tipo energetico, che in questi giorni, come sapete, è assai importante, e facendo questi passaggi Abbiamo avuto politici anche come Fanfani, che avevano dato il là a Enrico Mattei, che ricordo non prendeva nemmeno uno stipendio dall'ENI al tempo, cioè il suo stipendio lo dava a un convento di suore, e infatti quando morì nell'attentato, al 99% fu un attentato, la vedova non aveva nessun tipo di reddito, quindi Leni diede una pensione, il consiglio di amministrazione decise di dare una pensione a questa donna perché di fatto la condizione economica di Mattei non cambiò, lui proprio aveva uno spirito nazionale. Questo anche, per esempio, non piaceva tantissimo né alle sette sorelle né anche agli americani in quel momento, che vedevano nell'Italia un ponte diverso da quello che pensava Mattei. Quindi vedevano nell'Italia un paese che doveva comunque stare a delle regole perché aveva perso la guerra, e anche gli inglesi. Infatti i nostri politici furono tutti intercettati dal 67 fino all'80, e il golpe borghese, che era già pronto. Ci sono anche delle persone che in quella notte, io ho parlato con un paio di persone a Roma, un paio di dirigenti socialisti però di secondo e terzo livello, non propriamente di primo livello, che avevano anche delle foto dei cingolati dell'esercito, che erano già andati a chiudere la partita verso la RAI, avrebbe dovuto, no, Borghese, dire e raccontare alcune cose. Quindi da questo punto di vista lì abbiamo il famoso piano solo, che ci sono tanti libri ma che ne parlano a pezzi, non abbiamo mai un libro massimo perché nessuno si prende la responsabilità di dire tutta la storia, e quindi abbiamo autori. Adesso c'è qualche autrice, io ho scoperto delle autrici ultimamente che stanno scavando nel delitto Pasolini, però Pasolini diventa un pezzo di un puzzle, perché sennò non si capisce il resto. Di mezzo c'è anche Olivetti, non viene detto, ma in realtà Olivetti hanno rubato il computer, il PC, il famoso PC che usiamo tutti, l'hanno rubato a Olivetti, ci sono andati sulla Luna gli americani e lo sapevano i servizi italiani, quindi lì è proprio spionaggio industriale, neanche tanto spionaggio, perché il computer venne messo ufficialmente alla fiera di New York della tecnologia e venne rubato lì. Quindi fu proprio una sorta di fregatura totale anche per la Olivetti. Poi sappiamo che anche con i televisori ci fu un problema, perché la Sinudine aveva brevettato dei televisori di nuova generazione che non piacevano al mercato americano. Quindi insomma, da questo punto di vista noi con gli americani abbiamo parecchi conti in sospeso, forse più che con l'altra parte. Ecco, allacciandomi a questo, arriviamo poi a un periodo molto vicino a noi, che è il periodo delle ultime elezioni americane, quindi prima di Joe Biden, Trump. Quindi adesso ragioniamo un attimo su Trump. Sono un ex agente della CIA. Mi chiamo Valerie Plame Wilson e testimonio davanti alla Commissione di Controllo e Riforma del Governo della Camera il 16 marzo 2007 a Washington. Ero un operatore sotto copertura per la Central Intelligence Agency, fino a quando la mia identità non è stata rivelata sulle pagine del Washington Post nel 2003. Ero sotto copertura e lavoravo nel controspionaggio. Il mio lavoro era quello di raccogliere informazioni e reclutare spie per garantire che non si acquisissero armi nucleari. Tutto questo finì quando il defunto reporter Robert Novak rivelò che era una spia della CIA. Successivamente l'ex vice segretario di Stato Richard Armitage disse di aver inavvertitamente rivelato il mio status a Novak. Nessuno fu accusato di aver rivelato la mia identità, anche se un'indagine del Dipartimento di Giustizia verificò se l'amministrazione Bush avesse rivelato me come vendetta per l'opposizione di mio marito alla guerra in Iraq. Ora pago io per tutti. Mi trovo nel reparto di terapia intensiva della University College Hospital il 20 novembre 2006 a Londra, Inghilterra. Sono un ex agente della Federal Security Service, l'agenzia di spionaggio russa. Mi chiamo Alexander Litvinenko e sono scappato nel Regno Unito nel 2000 dopo essere stato arrestato due volte in Russia perché accusai i vertici dell'FSB di aver ordinato l'omicidio di Boris Berezovsky. Berezovsky era un uomo d'affari che aveva criticato il presidente russo Vladimir Putin. Il 1 novembre 2006 mi sono ammalato gravemente. I medici hanno scoperto che ero stato avvelenato da polonio 210 radioattivo, che era stato messo nel mio tè al Millennium Hotel di Londra. io ho preso questi esempi perché sono fondamentali per capire come funziona questo mondo, che non è un mondo propriamente amico, ma è un mondo assai ostile per tutti, sia per lo spionaggio che per il controspionaggio. Quindi nel caso della Russia, in questo caso di questo signore che venne ucciso con il polonio, in realtà questa è una prassi che il KGB, il KGB, alla fine qui è sempre il KGB, ha la stessa... è fatto come prima, non è cambiato più di tanto in Russia, quindi c'è sempre quel servizio lì, e decise appunto di far fuori questo personaggio che aveva in mano delle informazioni letali per il presidente Vladimir Putin, e soprattutto aveva in mano una serie di report che mettevano nei guai parecchi oligarchi che stavano appoggiando Putin e che tuttora alcuni appoggiano Putin. Da questo punto di vista la Russia di oggi rappresenta una testa di ponte interessante per quanto riguarda lo spionaggio moderno, perché da una parte pare che abbia dato anche aiuti a Trump per essere eletto, e come l'ha fatto? L'ha fatto tramite i social network, quindi ci sono delle tecniche proprio di spionaggio, ma proprio di influenza per quanto riguarda le persone che stanno su queste piattaforme, e queste tecniche portano a far credere alle persone determinate cose, quindi vengono creati degli account multipli, vengono creati degli account finti che gestiti da software fanno credere che un determinato paese abbia l'opinione pubblica che devi da una parte o dall'altra. Ovviamente se tu sei una persona comune e ti colleghi su Facebook e vedi che 400 persone hanno un certo tipo di idea, tu alla fine della giornata, se sei abbastanza tranquillo, è probabile che la pensi allo stesso modo, proprio per statistica. Quindi o sei veramente una persona con gli anticorpi, oppure tu a fine giornata sei convinto, nel caso della Russia di oggi, che la Russia non abbia attaccato nessuno, ma che sia un'operazione speciale. L'altra grande strategia, non solo spionistica, ma proprio di disinformazione, l'ha fatta la Cina col Covid. Covid è una parola inventata dall'agenzia spionistica cinese, che vuol spostare l'attenzione sulla parte meno cattiva di questa malattia, cioè dalla SARS. Cioè il Covid è una SARS, non è altro che la SARS, solo che non si poteva dire. E perché? Perché nel 2002-2003 con la SARS ci furono grossi problemi, e a quel tempo Bush aveva chiuso i confini e solo il Canada si fidò della Cina, infatti ebbe più morti di tutti. L'Italia per esempio non fu quasi toccata, se non con Carlo Urbani, che si trovava in Vietnam, venne chiamato a un uomo d'affari, disse: guardate che la malattia è grave, quindi dobbiamo fare determinati interventi. Ecco, noi un Carlo Urbani non ce l'abbiamo avuto nel 2020. Abbiamo avuto solo un medico cinese che nelle Snapchat, cioè nelle chat cinesi, perché loro hanno un social network, delle chat tutte loro, aveva dichiarato che ci fosse una malattia letale e che questa malattia non fosse ufficialmente messa nero su bianco sui giornali, eccetera. Quindi ci siamo poi ritrovati, come sapete benissimo, con tutto il discorso del Covid. E questo è quello che ci deve far capire che cosa vuol dire disinformazione nel 2020-2022. Non vuol dire solamente avere delle persone lì che ti parlano di quello che succede lì, vuol dire anche avere delle persone qui che spostano l'attenzione pubblica. Si è molto parlato per esempio della missione russa in Italia, dove il COPASIR, che tanti non sanno cosa faccia il COPASIR, ma in realtà è un organo della Repubblica che gestisce tutte le informazioni che passano e che vanno contro l'interesse nazionale. Ecco, il COPASIR ha aperto un fascicolo dove ha dovuto parlarci anche l'ex presidente del Consiglio Conte, perché probabilmente a Conte non fu detta tutta la realtà. Io sono convinto che Conte non conoscesse tutta la realtà e che, come al solito in Italia, la politica estera sia considerata un appendice. Cioè io faccio politica come Salvini, che dice: io vado in Russia senza avvisare la Farnesina, senza che Draghi sappia nulla, il ministro degli esteri che deve smentire uno dei leader politici. Oppure potrebbe essere un messaggio a Putin: io comunque ti volevo venire a parlare, attenzione, perché poi qui bisogna anche capire. Questi politici, io non credo che sia un messaggio a Putin, perché secondo me è proprio una questione di propaganda interna alla politica italiana, che è ancora più grave, perché questi politici non si rendono conto di che cosa stanno facendo in un periodo in cui c'è una guerra anche sotterranea a livello economico. Noi in questo momento con la Russia, per spiegare due cose che sui giornali si trovano molto poco, e noi con la Russia in questo momento non stiamo né vincendo né, né perdendo, stiamo pareggiando, nel senso che noi ci compriamo il gas, vendiamo altre cose e soprattutto la Russia non va in default, come invece vuole raccontare qualcuno. La Russia semplicemente non vengono accettati i suoi pagamenti, ma la Russia non è più la Russia del 98, quindi non va in default. E questo è un gran problema, perché non siamo di fronte all'Iraq, all'Afghanistan o a tutti quei paesi che avevano una guerriglia, che noi andavamo lì con 4 elicotteri, facevamo un po' di show e poi ce ne tornavamo a casa, stavamo lì a far altro. Con la Russia non lo possiamo fare, perché la Russia ha un esercito regolare che, per quanto abbiamo sperimentato sia un esercito non propriamente efficientissimo nella catena di comando, che però è una deficienza russa da inizio secolo scorso, perché la Russia non ha mai fatto guerre d'aggressione finite bene, le ha perso con la Finlandia nel 40, nel 39, aveva perso con la Germania, poi ovviamente la Germania è stata sconfitta perché ha fatto guerra all'intero mondo, però all'inizio non ci avevano capito nulla i generali russi, ha perso in Afghanistan perché ha questa tattica di sfondamento con questi carri che è una sorta di blitzkrieg, ma siamo ormai nel 2022, quindi la blitzkrieg la fai fuori con gli aerei, però rimane sempre una potenza che ha un potenziale bellico abbastanza grosso e quindi per sfinimento a uno stato come l'Ucraina lo mette in difficoltà. Se avete notato, ultimamente le armi ne hanno mandate meno all'Ucraina, perché si sono resi, perché in realtà bisogna capire fin dove era la solidarietà e fin dove era l'esperimento. L'esperimento era quanto durano i russi in un teatro bellico convenzionale con armi buttate lì, però moderne, che non erano moderne, perché le armi che sono state date ai russi agli ucraini sono tutte armi 80-90, quindi le vere armi moderne non le ha messe in campo nessuno, neanche gli aerei. Perché la Russia ha fatto salire neanche gli elicotteri. Quindi, e noi sui giornali invece abbiamo avuto tutta un'altra visione, cioè un attaccante molto forte con una tenacia in difesa. La tenacia c'è stata degli ucraini, perché non se l'aspettavano nemmeno io, nemmeno i russi, questa tenacia, però è stata una tenacia anche molto camuffata da una difesa con armi di un certo livello che gli ucraini ovviamente non potevano avere, perché hanno ancora l'arsenale ex sovietico che non è quello che conosciamo. Quindi da questo punto di vista abbiamo avuto uno scambio più che altro economico. Quindi è una guerra che si basa, quella di oggi, molto sulla deterrenza economica, poco sulla deterrenza anche nucleare, nonostante i vari passaggi. E dal punto di vista romantico dello spionaggio, la tecnica usata da Putin è quella che aveva usato Nixon con le potenze durante il Vietnam, cioè aumento continuamente la tensione, in quel caso lui la aumentava con gli attori della zona del Vietnam, aumento continuamente la tensione perché tanto nessuno mi verrà a fare la guerra perché abbiamo le testate nucleari. È un po' la teoria del pazzo, si dice in gergo geopolitico, geostrategico, cioè io alzo la tensione, ti minaccio continuamente, a ogni tua minaccia aumento sempre di più, tanto tu stai fermo perché dici, vai, cos'è, usiamo le armi nucleari, andiamo a finire male tutti quanti, quindi non le uso. E con questa strategia probabilmente riuscirà a tirare avanti tutto il 2022, finché da una parte o dall'altra non decideranno che a questo punto o l'Ucraina non esiste più e viene inglobata, oppure la dividiamo a metà e finisce come con la Corea. Non sarà possibile che Putin molli il Donbass, per esempio, perché lì lo dicono le stesse persone che vivono lì, perché sarebbe una sconfitta. Quindi non ci vuole una grande analisi di scienza strategica per capire questo. Ma come è andato avanti lo spionaggio in questi anni? Lo spionaggio è stato più o meno come sempre, cioè abbiamo avuto della disinformazione fatta da spie russe in Italia, e ne abbiamo tante, che operano sul territorio italiano e in Occidente in generale, e queste spie possono essere inserite nel tessuto, fare per esempio gli insegnanti, lavorare nelle biblioteche, sempre in posti in cui hai, anche al supermercato, dove tu senti la gente comune, il sentimento comune, non la troverete mai all'interno, sì, può esserci anche all'interno di una dirigenza, perché nella dirigenza passano alcune cose, però l'aneddoto che ho trovato della cassa di risparmio, a prescindere che sia vero o sia falso o troppo romanzato, ci fa capire quanto molte volte delle semplici storie quotidiane, delle semplici avventure soprattutto amorose, ci potessero dare, la possibilità di avere un quadro molto più ampio. Perché dico amorose? Perché molto spesso venivano fatte anche delle fotografie tra fidanzati che poi venivano girate ai vari comandi. Succedeva con spie molto famosissime come Matari. Ecco, e qui mi fermo perché sull'amore abbiamo qualcosa da dire. Dall'antichità ai tempi moderni, dalla biblica Dalila fino alla spogliarellista Matari, la spia femmina usa l'arma della seduzione per circuire il maschio e aggirarne le difese. Ne forniscono buona prova l'austriaca Margit Gross e l'italo-elvetica Laura Doriano, insidiose agenti nemiche entrate in azione l'una nel periodo prebellico e l'altra nel 1941, rispettivamente destinate a una fortunata carriera e al plotone d'esecuzione. Margit Gross, alias Margherita Mastracchi, nata a Vienna nel 1898, diviene italiana per matrimonio, avendo sposato l'ufficiale di marina Giovanni Mastracchi. L'unione fa presto naufragio, ma la donna resta nell'ambiente marittimo come fiduciaria del deuxième bureau. Il suo fare ammiccante e disinvolto mieterà vittime tra i belli imbusti dell'ammiragliato. A estradarla verso lo spionaggio è, nella primavera del 1932, mentre in vacanza a Ginevra per praticare lo sci, uno sconosciuto corteggiatore, un distinto signore francese che le promette facili guadagni in cambio di notizie sui movimenti delle navi da guerra nel porto di Napoli. L'incontro è di quelli che non si dimenticano e il commiato lascia il desiderio di un nuovo abboccamento col misterioso e generoso Monsieur Pont. Il giorno della partenza da Ginevra, il signore mi accompagnò alla stazione ferroviaria, pagò il mio conto di albergo e mi offrì una bomboniera contenente cioccolatini e un servizio di profumi. Al momento di partire mi diede poi una tavola di cioccolata nella quale, con sorpresa, trovai racchiusi due biglietti da 1000 franchi svizzeri. Ecco, come vedete questo episodio, che è anche divertente perché fa capire, poi si finiva davanti al plotone di esecuzione perché alto tradimento, quindi non c'è da scherzare, come molti pensano e molti credono che finisca sempre bene, ma in realtà io adesso qui non posso fare degli esempi troppo nello specifico perché ci sono anche delle indagini in corso e non è neanche corretto, però ci sono alcune volte delle questioni che in realtà non sono come vengono raccontate. Ma una trasmissione come Chi l'ha visto, per esempio, aveva beccato una persona che in realtà era stata uccisa perché aveva purtroppo fatto affari con persone sbagliate, in quel caso era spionaggio industriale, senza saperlo però. E è successo che anche svariati ragazzetti siano finiti nei guai perché magari, come si dice oggi, smanettano su piattaforme nel deep web, quindi nel web oscuro c'è di tutto, puoi comprare un Kalashnikov in 5 minuti, solo che queste cose non si possono far vedere così a una conferenza o comunque in maniera così plateale, perché sennò qualcuno potrebbe anche imitare. Ecco, da questo punto di vista a quel tempo c'era una scuola, se non altro, quindi la persona in questione non finì bene. Però l'aveva fatto proprio per questioni di aumento del proprio reddito, aumento del proprio status sociale. Adesso si fa sempre per soldi. Hanno trovato tempo addietro a Genova una ragazza che non pensavano nemmeno fosse russa, che inviava di tutto in Russia e sapeva e conosceva 3-4 linguaggi di programmazione. Solo che poi si è fatta fregare perché non aveva visto che di fronte a lei c'erano quelli dei servizi segreti italiani che la stavano spiando da un anno, quindi hanno recuperato anche informazioni. Ecco, era più romantico e più bello da raccontare negli anni 40, perché chiaramente il millimetraggio delle navi, quindi delle corazze delle nostre navi, veniva passato tramite delle foto o dagli aerei, oppure appunto con questi escamotage qui. È interessante sapere che in piena Seconda Guerra Mondiale la corazzata, quindi l'ammiraglia inglese della Royal Navy fu affondata dai MAS, i famosi MAS italiani, che però avevano anche un aggancio con una guerra anfibia molto pericolosa, cioè i sommozzatori lì si avvicinavano col MAS e poi agganciavano l'esplosivo alla corazzata o comunque alla nave in porto a mani nude. Poi Teseo e compagnia riuscirono a piazzare l'esplosivo sulla Valiant, quindi l'ammiraglia della Mediterranean Fleet, e vennero però pescati al porto d'Alessandria d'Egitto, perché purtroppo furono pescati perché avevano i soldi che erano andati fuori produzione, cioè quei soldi non venivano più battuti, gli avevano dato delle sterline che non erano più battute da un annetto, quindi loro si andarono a comprare due o tre robette e quelle robette lì portarono i Teseo e compagnia a essere arrestati, dopo aver portato un siluro a mano, perché si era rotto il motorino d'avviamento, se lo sono trascinati a mano questi sommozzatori, e pensate che hanno piantato la mina magnetica al di sotto della linea di galleggiamento, ma stando attenti di non mettere dove c'erano gli alloggi delle truppe degli ufficiali inglesi. Quindi quando vennero presi dagli inglesi, Cunningham ebbe questa idea, li mise incatenati al di sotto della linea di galleggiamento e gli disse: se non mi dite dove avete piazzato le mine, io vi lascio sulla nave che salterà per aria. A 10 minuti dissero dove furono posizionate le mine, la nave saltò per aria, però venne fatta evacuare. Furono onesti i marinai italiani, perché dissero: fate evacuare la nave perché salta per aria, però noi non abbiamo messo le mine dove ci sono le cucine, hanno trovato delle parti, cioè è stato fatto uno studio proprio per questo motivo qua. Questa è una cavalleria che si fa in guerra, perché comunque tu distruggi il mezzo, non dovresti uccidere, questa era l'idea, come Francesco Baracca che diceva: io cerco di colpire l'aereo, non il pilota, la mia strategia è colpire l'aereo, poi è chiaro che può succedere che si colpissero, però l'idea era quella di danneggiare l'aereo e addirittura dargli la possibilità di atterrare, non avrebbero mai mitragliato un aereo negli anni di quella guerra, che infatti gli austriaci non si comportarono tanto bene con D'Annunzio, perché provarono a bombardare la sua casa vicino a Venezia, che era stata di un barone austriaco durante l'occupazione austriaca di Venezia, e loro, insomma, D'Annunzio era sì polemico, ma rimaneva un poeta, e questo fece un po' di scalpore che che loro si misero proprio con l'ENA a bombardare questa casa, perché non fu molto galante questo. Infatti D'Annunzio rispose col volo su Vienna, e non sganciò bombe, sganciò volantini. Quindi a quel tempo c'era questo tipo, il volo su Vienna, che fu poi filmato e fotografato da spie italiane a Vienna, perché lo spionaggio italiano, che era indietro prima della prima guerra mondiale, noi subimmo una serie di attentati, e andò poi avanti senza nessun tipo di problema, e anzi si rivoluzionò e partì dalla marina per poi andare in tutti i corpi dell'esercito. Ecco, e a tal proposito, appunto, dato che parlo di navi militari, l'indagine del controspionaggio ha dunque accertato le numerose e qualificate frequentazioni intime di Margit Grossi in Mastracchi con un folto numero di alti ufficiali. Potrebbe nascerne un grosso scandalo, quanto mai nocivo per l'immagine della Marina in un momento così delicato come quello che precede l'entrata in guerra. Ma tutto è messo a tacere. Il materiale che inguaierebbe capitani e colonnelli è segretato. Di esso i giudici del Tribunale Speciale non faranno menzione e il processo eviterà di chiamare in causa informatori così altolocati. A pagare per tutti saranno un paio di marinai. A conclusione dell'inchiesta, condotta con particolare rigore, questo Ministero deve escludere che tutti gli appartenenti alla Regia Marina, citati dal Mastracchi, debbano rispondere di alcuna cosa che possa anche lontanamente offuscare la loro figura di militari e di cittadini. Dall'interrogatorio del Cocozza è emerso che costui ebbe modo di conoscere, per i suoi fini delittuosi, due furieri e due sottocapi segnalatori. È stato accertato che costoro, avendo ricevuto da Cocozza esplicite richieste di collaborazione nel campo informativo per la ricerca di cifrari, documenti e carte riservate, rifiutarono ogni adesione, ma non si curarono di informare di ciò i loro superiori. Ecco, come avete sentito da questi scorci di lettura, poi le cose andavano a finire così, quindi insomma sono proprio delle avventure che fanno ricordare i film, però in realtà, specialmente nel periodo prima, seconda guerra mondiale, non c'era approssimazione, c'era proprio spirito d'avventura completo. Quindi una spia proprio cambiava, anche adesso cambiano nome, hanno gli alias e tutto, però è chiaro che in un momento come quello storico di oggi risulta anche un po' più semplice far certe cose, anche se è più difficile intercettare, perché con internet è diventato un bel disastro, perché ci si può scambiare di tutto, si può spiare, se qualcuno dovesse entrare all'interno del sistema delle telecamere di una città non ha bisogno di mandare a livello capillare troppi agenti, perché tanto già vede cosa succede. Poi ci sono i satelliti che possono essere hackerati. Quindi nel mondo di oggi abbiamo lo spionaggio che in realtà è molto più vicino a noi rispetto al mondo di ieri, anche se è probabile che, mi avevo letto uno studio interessante, nella nostra vita abbiamo parlato almeno 20 volte con una spia, da qualche parte l'abbiamo incontrata. E può capitare che comunque ci siano solamente delle spie, anche che non facciano gestioni malefiche della nostra vita, ma che siano solamente lì a capire come va l'opinione pubblica, perché questo può essere fatto tranquillamente, e molte volte sono anche personaggi famosi che fanno questo genere di, anzi, di solito qui abbiamo citato Matari piuttosto che altre spie, ma quasi sempre sono attori e attrici. Cioè, se io dovessi reclutare delle spie andrei probabilmente al Piccolo Teatro di Merano, dove magari qualcuno che viene a farmi qualche lavoro a livello spionistico lo trovo, perché è già più abituato a impersonare e a credersi qualcun altro, perché attenzione, la vera spia crede poi a quello che fa. Quindi non basta solo recitare una commedia e dire ma io sono un ingegnere, vado in ferie da qualche parte e faccio delle fotografie, cioè non basta quello, devi proprio credere nel personaggio alcune volte. Poi se fai quello che in gergo si chiama humint, cioè a livello umano sei all'interno, quindi io mi faccio assumere dalla Valeria qui in biblioteca e sto qui a mettere a posto i libri, ascolto tutto, faccio tutto, a questo punto io sono all'interno dell'apparato e Valeria non deve capire che io sia una persona degli apparati, e quindi è probabile che lei lo dicano alla fine: guarda, l'abbiamo mandato lì, però lei all'inizio non lo sa, perché potrebbe inquinare il lavoro anche in buona fede. Oppure potrei essere inserito, avete sentito parlare sicuramente del discorso Stato-mafia. Ecco, in quel caso c'erano i servizi che avevano infiltrato la mafia, semplicemente. Quella è una cosa che viene spiegata male sui giornali, quella trattativa, viene stato accusato Napolitano, ma in realtà da quel punto di vista le accuse fanno un po' ridere, perché in Italia abbiamo questa mania di dover per forza dir tutto, ma al 70% le cose quando non sono dette funzionano meglio in certi apparati. Qui non stiamo parlando di etica politica, qui stiamo parlando di evitare che ci siano delle stragi. Quindi avevamo degli agenti che avevano campo libero e mano libera. Fare l'agente in Italia è molto difficile, perché il caso Abu Omar, se ve lo ricordate, è molto difficile, perché tu sei soggetto al normale apparato di magistratura. Questo in America per esempio non è così. Se tu hai da fare delle operazioni devi chiedere dei permessi che possono anche non essere dati, e portare un'arma per esempio diventa un problema, e questo intralcia molto spesso, rallenta, e quindi dalle nostre parti puntano molto sullo sniffing, come si dice in gergo, cioè ascoltano e guardano tantissimo. Infatti il ponte di Rialto, molti pochi non lo sanno, non è saltato per aria con l'ISIS, perché è stata fatta un'operazione di sniffing durata 2 anni. Però questa è una cosa che non si sa e non si deve sapere, perché se si sa la prossima volta non si riesce a evitare. Se vi ricordate, la Francia ebbe dei problemi col terrorismo di matrice islamista. Perché? Perché non aveva agenti all'interno delle banlieue. Non hanno mai fatto quel tipo di lavoro, si credevano immuni, nonostante ci fosse stato il terrorismo algerino. E perché la Tunisia? Perché in Tunisia non sempre si formavano i terroristi al tempo della guerra d'Algeria, quindi adesso la Tunisia li forma per la guerra in generale. Quindi queste sono cose note e sono cose che vengono spiegate maluccio. Avremmo dovuto andare in Tunisia, non in Iraq, perché arrivava da lì. l'ISIS in realtà si è formata in Tunisia, ma si è formata in Libia, nella parte sud, dove c'era una carovana che arrivava ancora da più sud, dal Sahel. Quindi noi tutte queste cose non le abbiamo. A me è capitata una cosa un po' che fa ridere per il giornale per cui scrivo, Report Difesa. Mi dicono di intervistare Lutwak, io lo intervisto, lui mi dà un numero di telefono. I nostri militari nel 2016 avrebbero potuto essere mandati in Sahel con i francesi. Io chiamo questa persona che è lì nel Sahel, ha un accento tra il francese e l'arabo, non so chi sia, comunque ha un numero di telefono satellitare. Faccio uscire l'intervista dicendo che gli italiani rischiano perché i francesi li mettevano in un forte, e questo forte senza elicotteri. Insomma, si rischiava che li facessero fuori tutti i 150, questi nostri militari. E al giornale ha chiamato il capo di stato maggiore chiedendo al giornale dove avesse preso l'informazione. Il direttore disperato mi ha telefonato la mattina, io ero a scuola, mi ricordo, quindi mi sono trovato a parlare col capo di stato maggiore in contemporanea col direttore del giornale, e gli ho dato il numero di telefono, che ovviamente era già non funzionava già più. Io ho dato tutto, però in quel caso lì noi abbiamo capito che un anno di report con una telefonata aveva già smentito quello che avevano detto ai nostri comandi. Poi la missione non si è fatta, Gentiloni probabilmente non aveva abbastanza informazioni per far partire i nostri militari, cosa che mi confermò in un'intervista. Questa parte non ho potuto ovviamente pubblicarla, però mi fece capire che in quelle circostanze noi avevamo un po' la sabbia negli occhi, come si dice, cioè c'erano parti del mondo che noi non avevamo più tanto sotto controllo, appunto perché erano venute meno alcune aziende che non operavano più in quelle zone. Per esempio della Nigeria sappiamo quasi tutto perché ci sono le raffinerie dell'Eni. Nel Golfo Persico non ci sono problemi. Se nel Golfo di Aden uno di voi qui venisse rapito dai pirati, nel giro di 24 ore probabilmente riusciamo anche a liberarlo senza pagare più di tanto. Ovviamente lì bisogna capire, paghiamo, non paghiamo, con chi parliamo, rischiamo, non rischiamo. Gli americani hanno una tattica lì molto particolare, loro mettono pressione ai rapitori e poi provano con i Navy Seals, quindi tu sei bollino blu. Bollino blu vuol dire che se c'è il bollino blu puoi essere sacrificabile. E loro dicono, è andata così, però ci siamo ripresi il mercantile. È interessantissimo in questo caso, per esempio, parlare di quello che è successo ai Marò, che probabilmente spararono, Tony Capuozzo aveva fatto quell'indagine perché era andato alla sua conferenza, spararono a pelo d'acqua, quindi non potevano essere stati gli spari calibro NATO dalla nave. La stessa India aveva smentito la balistica della prima indagine perché probabilmente spararono i basisti stessi ai pescatori, che poveretti si ritrovavano a dover fare quell'operazione. Quindi non è vero che i pescatori non c'entravano niente, i pescatori purtroppo erano stati obbligati a far camuffare quel tipo di operazione, la nostra intelligence non sapeva. Solo che lì c'era il problema degli elicotteri, quindi abbiamo fatto un po', si è messo di mezzo De Mistura, che era famosissimo questo italiano che lavorava all'ONU, perché tu avevi un problema, chiamavi De Mistura e o ti ammazzavano o il problema diventava più grave. Quindi quando lessi De Mistura, i Marò gli ci ho messo una pietra sopra, e infatti Monti poi fece degli errori e perse il suo miglior ministro Terzi, che si dimise perché Terzi era riuscito a portarli in Italia, e invece gliel'abbiamo rimandati indietro. Cioè sono stati fatti degli errori proprio a livello di intelligence. La nostra intelligence disse no, state fermi che questi vengono impiccati, eppure vennero rimandati lì. Cioè sarebbe bastato un blitz con un elicottero riportato in Italia e detto all'India, non ti forniamo più tecnologia, non fai più nulla, fai un'indagine seria, non che dai in pasto i nostri militari perché ci sono le elezioni in quello stato lì, perché questa è stata lì. Solo che chiaramente in Italia, come col caso Regeni, si infila la politica. Caso Regeni è un caso spinosissimo. Per tornare ad argomenti più carini, e poi torniamo appunto anche a una lettura che secondo me sarà carina, ma per tornare ad un argomento più carino, vi faccio un esempio di servizio segreto che in realtà non era segreto ma era in conferenza stampa. Reagan negli anni 80 parlò di guerra e Star Wars, dicendo ai russi, e in quella situazione nella conferenza stampa c'erano agenti del KGB e lui lo sapeva, dicendo ai russi, guardate che noi abbiamo una tecnologia in grado di tirar giù i vostri missili intercontinentali. Quindi abbiamo lo Space Shuttle, che già aveva volato, quindi era un mezzo spaziale che poteva essere riutilizzato con la possibilità di caricare sorte di cannoni laser che facessero sbandare il sistema di puntamento dei missili russi, che esplodessero poi nell'atmosfera e pace. Quindi i russi si ritrovarono con questa informazione. Andando in Russia, il KGB disse: sono tutte cavolate, gli americani non hanno questa tecnologia, cioè hanno lo space shuttle, ma non hanno questa tecnologia, non sono in grado. Pensate che però Gorbaciov non credette al suo servizio segreto e credette ai rapporti della CIA e alla conferenza stampa del suo amico nemico Reagan. Reagan aveva capito come funzionava con i russi. La guerra allo spazio fu tutto un gioco di noi abbiamo fatto questo, voi avete fatto quell'altro, poi si sono fatti lo spionaggio, perché lì si sono fatti lo spionaggio uno con l'altro a livello industriale, a livello militare, quindi in realtà fu tutto fatto in conferenza stampa. Lì i servizi americani non fecero praticamente niente se non quella di confermare che avessero queste armi. I servizi russi avevano lavorato meglio, però nella storia le Star Wars, addirittura Reagan prese il film Star Wars, che era considerato un filmaccio anche perché aveva avuto un budget ridicolo, George Lucas non era ancora considerato sto gran regista, quindi prese pure un filmaccio considerato di serie B negli 84, dicendo: noi abbiamo lo Star Wars, scudo spaziale, che non c'entrava niente, non ce l'avevano, non c'era nessuno scudo spaziale, però con questo escamotage riuscì a vincere poi anche la guerra fredda, gli Stati Uniti riuscirono. Mi chiamo Oleg Gordievskij e sono entrato nel KGB nel 1961, ma a partire dal 1971 avevo un altro capo, MI6, il servizio segreto britannico. La mia doppia vita mi raggiunse nel 1985. Ho ricevuto la notizia da Mosca e dovevo tornare a casa dal mio incarico a Londra. La paura fredda mi ha iniziato a correre lungo la schiena, perché sapevo che era una condanna a morte. Ero stato scoperto, ma con la rassicurazione che l'MI6 non era stato compromesso. Tornai comunque a Mosca. Fui drogato e accusato di essere un doppio agente, ma non arrestato. I sovietici aspettavano che contattassi gli inglesi per arrestarmi. Da quel momento la mia vita cominciò ad assomigliare a una trama di un film. Gli inglesi mi diedero un piano di fuga nascosto nella copertina di un romanzo. Il mio segnale per fuggire era la vista di un britannico che mangiava qualcosa in un luogo e in un momento stabilito. Mi diressi verso il confine finlandese, dove tre agenti britannici mi incontrarono con un SUV appositamente modificato, in modo che potessi fuggire, nascondendomi nello spazio dove normalmente ci sarebbe il camion. Ora vivo nel Regno Unito e scrivo libri, anche sul KGB, ma sono vivo. Mi chiamo Kim Philby e sono stato primo segretario dell'ambasciata britannica a Washington. Posso vantarmi di essere una delle più famose talpe del KGB. Sono figlio di un esploratore britannico e funzionario coloniale in Medio Oriente. Fui reclutato come spia sovietica all'Università di Cambridge. Era facile per me passare informazioni segrete ai russi. Ho semplicemente fatto amicizia con un archivista che mi ha permesso di portare i documenti a casa. Nel 1951 lasciai l'MI6 perché pensavo di essere scoperto. Fui esonerato nel 1955 e andai a Beirut come giornalista, lavorando di nuovo come spia per la Russia. Venni nuovamente sospettato dell'intelligence britannica. Scappai, disertando in Russia nel 1963. Rimasi in Russia fino alla morte, deluso però del comunismo russo, ovvero l'ideale che mi spinse a tradire il mio paese. Come vedete, poi ci sono anche stati d'animo delusioni, perché molto spesso si combatteva per degli ideali, si fa spionaggio o controspionaggio per degli ideali, per l'interesse nazionale, anche per i soldi, come abbiamo visto, oppure anche solamente per vantarsi di averlo fatto. Per esempio, Matari fu troppo disinibita nel raccontare alcune questioni, cioè lei si vantò in pubblico più volte di essere una spia. È che è un'altra tattica, cioè se io venissi qua e vi dicessi io sono una spia che lavora per la Russia, probabilmente non mi crederebbe nessuno. Quindi io vi sto dicendo la verità, per contrappasso non mi crede nessuno però. Quindi ci sono varie tecniche, e questo aneddoto particolare, colpo Zurigo, 1917, Svizzera. Abbiamo un problema in Italia, esplodono le navi nei porti, a Napoli, ad Ancona, a Genova, in Sicilia, esplodono queste navi, non si capisce bene come si riesca ad arginare questo, vengono arrestate delle persone, ma non parlano, vengono arrestati dei mozzi, ma non parlano, alla fine si riesce a scoprire che a Berna c'era un ufficio, proprio al consolato austriaco, quindi sotto il naso, era sotto il naso perché era il consolato, un ufficio che si occupava assolutamente degli affari italiani, o meglio, coordinava tutte le operazioni italiane, italiane nel senso che le utilizzavano italiani, quindi operazioni austriache con italiani in Italia. E questo edificio particolare a Berna, in via Seidengasse, fu beccato per caso. E poi l'operazione fu gestita dal tenente Pompeo Aloisi, che fu intelligentissimo perché divise l'operazione in tre serate, e la serata principale fu quella tra Martedì Grasso e Mercoledì delle Ceneri. Quindi Martedì Grasso c'era un po' di festa, e la stazione in quel caso era molto popolata, quindi le forze dell'ordine se ne stavano tutte in stazione. E l'altro ufficio civetta, che si trovava a Berna, fu praticamente presidiato da forze italiane, ovviamente sotto copertura. Il vero ufficio era a Zurigo, quindi gli austriaci avevano anche fatto questo giochetto qua. Ma Aloisi se ne accorse perché? Perché una delle segretarie che operava in questo ufficio di fatto si confidò con un ufficiale dell'esercito austro-ungarico, che però era una spia italiana. Quindi lei era convinta di raccontare tutto dicendo: guarda che stanno preparando il colpo, io l'ho sentito, quindi lei ha fatto il suo lavoro, ma l'ha detto una spia italiana. Quindi Aloisi ha intercettato questo e ha detto: adesso li freghiamo e facciamo l'operazione su tre sere. Infatti le fonti, se voi andate a cercare il colpo Zurigo, vi dicono: le fonti sono incerte, forse una sera, no, in realtà è stato Aloisi che ha detto utilizziamo tre serate, e lui l'ha fatto in quella in mezzo. È come il gioco delle tre carte, lui era appassionato di questo gioco e lui, tac, è andato in quella in mezzo. Sono riusciti a entrare, a prendere i documenti e a prendere il treno per tornare in Italia, e nessuno li ha fermati. Ironia della sorte, la prima serata, se l'avessero scelta, avrebbero fallito, e anche nella terza, perché entrambe le volte i famosi treni svizzeri erano in ritardo. Quindi, come vedete, qui siamo in una sorta. L'operazione però fu fondamentale, perché da quel momento in Italia non ci furono più attentati, quindi ci siamo riusciti a organizzare nelle retrovie. Poi ci fu tutto il discorso di Caporetto più tutto il discorso del Piave, però noi avevamo comunque avevamo terreno all'interno del nostro stato a posto, come si diceva in gergo, quindi potevi camminare sul terreno, era una delle frasi che venivano dette quando il terreno era a posto. Puoi camminare sul terreno, si dicevano, quindi vuol dire non ci sono più spie. Le arrestarono tutte, e ovviamente andarono tutte davanti al plotone di esecuzione. Ci fu solo qualche scambio di prigionieri a fine guerra, perché gli austriaci dimostrarono di essere più bravi all'inizio della guerra degli italiani, perché avevano un apparato spionistico che funzionava, ma meno bravi poi nel cambiare durante la guerra. Quindi non ebbero questa spinta forte. Infatti, lo dico a questa conferenza, non l'ho detto in quella dove era presente qualcuno che adesso è qui che legge, ma addirittura i report dei nostri servizi sul Trentino, ho notato che vanno di moda ancora nel 2022, perché una delle bufale che venne data in pasto alla parte austriaca fu: no, guarda che gli italiani di lì tutto sommato sono tutti contenti di stare da questa parte e non avrete problemi. Invece gli italiani sul confine fecero un'opera di guerriglia molto fine, perché non ci furono dei morti, ci fu un danneggiamento e un rallentamento delle operazioni. Quindi Rommel, il famoso Rommel, la futura volpe del deserto, quando arrivò in Italia con la Strafe Spedizione, e quindi sfondò a Caporetto perché Badoglio aveva sbagliato tutto coi cannoni, quindi lì ci fu in realtà un errore tattico, e si trovò con i rifornimenti. Lui arrivò quasi fino a Venezia, non aveva più rifornimenti, però. Lo stesso errore che, cioè, paradossalmente è successa la stessa cosa in Africa. Arrivò fino a El Alamein per poi fermarsi, perché gli tagliarono, tac! Nella seconda guerra mondiale Rommel non sapeva di essere spiato dagli inglesi, che avevano rubato la macchina da scrivere, che in realtà non era una macchina da scrivere, ma decriptava codici, la famosa operazione Ultra, e poi gente come il matematico a Londra decifrava tutto. L'ironia della sorte, i codici italiani non furono mai decifrati. I tedeschi cosa facevano? Prendevano le operazioni italiane e le decifravano con Enigma, che era la loro macchina. L'Enigma poi veniva subito decriptata dagli inglesi, che conoscevano esattamente le mosse. Le nostre non le avrebbero conosciute, gliele davano i tedeschi involontariamente. Questo è un altro piccolo aneddoto. Non fu deficienza delle forze armate italiane, molto spesso fu che Cunningham e altri generali conoscevano le mosse in anticipo. Anche della nostra marina, purtroppo, che comunicava a Roma, e i tedeschi leggevano, rigiravano, ma lo leggeva. Churchill ebbe 3 giorni prima del bombardamento terroristico di Coventry l'informazione: bombarderanno Coventry, e lui decise di non dire a nessuno che il bombardamento ci sarebbe stato. Quindi fece bombardare Coventry perché aveva paura che, mettendo la contraerea e facendo alzare gli Spitfire, Hitler si accorgesse che gli leggevano i messaggini. Quindi da questo punto di vista lui sacrificò una città che venne rasa al suolo dalla Luftwaffe. Infatti era uno dei vanti di Göring, poi se ne vantò anche a Norimberga di aver bucato in questo modo le difese. Detto questo, ovviamente anche a Zurigo ci fu un colpo di pistola. Una divisione d'aiuto. Josef mi ha invece detto che sono pronti a combattere. Il grosso dell'esercito italiano è impegnato nei soccorsi. Sarebbe il momento giusto. Ma sarebbe una follia. L'Austria farebbe peggio di Brudo. Lo escludo, ma attirerò i miei canali a Vienna. Ora, Agathe, pensi alla sua condizione. Ho un patto con Josef. Lo so, colonnello. Non mi chiama? Va bene, l'aiuterò. Ma lei non dovrà farne parola alcuna. Ha parlato con qualcuno? In realtà? L'ho detto a Giulio. Disperata ho chiesto aiuto anche a lui. Giulio sa? Dove si trova ora? Non lo so. Ma sua sorella è con lui? Che cosa ha in mano? Una lettera. Ebbene, sono a Vienna. A Vienna? Allora gli italiani sapranno già tutto, ma... Ma? Allora forse Josef è già salvo. Mi metto in contatto con Vienna. Ecco, noi abbiamo concluso. Io vi ringrazio per essere stati presenti, e ringrazio anche i due attori, l'attrice e l'attore, che in questo caso hanno letto questo dialogo che avevo preparato e sistemato io, poi mi ha aiutato Vanessa poi a sistemarlo del tutto, perché loro sono più bravi di me. Infatti ho scelto di appoggiarmi a una compagnia teatrale, appunto per avere questi scorci. E a tal proposito faremo anche un evento appunto al Lido di Bolzano, lì saremo un po' più performanti, perché ci sarà proprio una parte recitata con anche vestiti d'epoca, eccetera. Io non so se avete domande su quello che è stato detto. Penso che questo argomento lo tratteremo altre volte qui in biblioteca, perché oggi abbiamo fatto una sorta di prova generale anche con loro, perché volevamo proprio capire se c'è la possibilità che argomenti anche complessi come questi siano più leggeri al posto di avere sempre il solito conferenziere o il solito professore che dice, fa briga e poi rimane un po' nell'etere. Quindi da questo punto di vista, secondo me, era una prova che andava fatta, visto che da prima della pandemia che io mi ero messo in testa questo, e quindi ci rivedremo probabilmente poi nel prosequio, perché tra Pasolini e compagnia magari saremo forse al piani alti, chi lo sa, ma il ciclo di conferenze quindi andrà avanti, perché ho notato proprio che c'è un trasporto diverso e poi ci sono degli stacchi, quindi io non so se poi avete delle domande su quello che ho detto, io sono disponibile a parlarne, però diciamo che l'esperimento mi sembra che sia andato bene. Sì, alla fine probabilmente sì, perché è meglio avere una persona semplice che non dà nell'occhio, oppure paradossalmente è iperesposta, perché una persona iperesposta non, di fatto non, infatti i giornalisti di solito, oppure opinionisti vari, o adesso, il politico in sé magari ha più un cerchio, ma in realtà persone esposte, come anche attori, ne hanno presi durante la Guerra Fredda. O sei iperesposto, o sei nella società, sei appunto un cassiere, oppure un usciere che ascolta tutto, o il barbiere. Andare dal barbiere non sembra, da un sacco di informazioni. Certo, al barbiere racconti un sacco di cose, diventa quasi. Non escludiamo neanche i sacerdoti. I servizi vaticani sono tra i migliori al mondo, perché sanno muoversi in un certo modo. Quindi non escludiamo neanche il Vaticano da questo, adesso io ne ho parlato praticamente nulla qui, però meriterebbe una conferenza solamente il Servizio Vaticano, la Biblioteca Vaticana, le fondazioni spesso sono un crogiuolo di interessi, quindi anche spionistico, perché comunque si vuole dare un messaggio al paese di un certo tipo, quindi le compagnie teatrali, torno a dirlo, possono essere un esperimento, eccetera. Adesso la chiudo qui poi. Ma mi sono meravigliato perché sono andato a fare una lezione al liceo, mi sono meravigliato che lo sapessero i ragazzi, perché vuol dire che allora questi giovani non lo sanno degli adulti, lo sapevano i ragazzi con la maturità. Gli istituti di formazione come il Dante Alighieri, gli istituti cinesi, il Goethe Institute, il Cambridge, sono istituti spionistici di soft power, cioè sono istituti che vengono messi nei vari paesi per vedere come funzionano alcune cose. Entro il Confucio, per esempio, se aprissero un istituto Confucio a Bolzano, insomma due o tre controllini sarebbe da farli, perché insomma loro non è che vanno in giro per il mondo a dirti che Confucio fosse bravo, ma penetrano a livello aggressivo, cioè i cinesi hanno questa aggressività economica e quindi entrano a gamba tesa. Il Goethe Institute è nato per promuovere la cultura tedesca, però per un progetto di egemonia della Germania. Il Cambridge veniva utilizzato dal Royal Institute per capire se nell'impero e nel Commonwealth ci fossero zone in cui non andasse. Infatti il Cambridge disse per primo: guarda che in India sta andando a finire tutto a rotoli. Quindi insomma, il Dante Alighieri nasce proprio in quest'ottica, cioè l'Italia è uno dei paesi che con la cultura diffonde anche il proprio interesse nazionale. Hanno scelto Dante perché è il padre della patria, non è stato scelto a caso, e Dante era una spia, non è stato scelto a caso, lui ha fatto lo spione per vari motivi, ha dovuto anche allontanarsi per un motivo. Leonardo da Vinci ha fatto la stessa cosa, e Machiavelli infatti, che si tolse dallo spionaggio, diceva sempre che insomma con la cultura si compra meglio, perché comunque tu a un letterato non lo metti alla forca, è difficile, non sono tutti come Giordano Bruno che non è proprio un letterato. Machiavelli quando venne a Bolzano proprio disse: sono qui a parlare con l'imperatore. Lui era un po' a metà strada, era ambasciatore, però era anche uno che scriveva questi trattati. Quindi Casanova invece era una spia che puntava tutto sull'amore, quindi, e poi però a sua volta si è innamorato lui di controspia, quindi insomma ha fatto un po' di confusione nel suo ruolo. Quindi insomma abbiamo tanti personaggi in Italia, perché l'Italia fin dal Rinascimento ha avuto questa scuola, ma dal tempo dei Romani in realtà, che abbiamo questa scuola, e anche i Greci, ma i Greci erano meno moderni, i Romani erano proprio più, cioè le spie erano anche dei re delle volte, loro pagavano direttamente il re del tal, della tal zona. Massinissa per esempio nasce come spia e poi al senato romano dicono: ah, Massinissa, se continui così, ci sono queste famose frasi, come anche Catilina era una spia e in realtà a sua volta fu spiato, Catilina era una spia della Repubblica, e infatti non abuserai della nostra pazienza Catilina, cioè sappiamo i tuoi affari, ma in realtà era Cicerone quello vigliacco che stava vendendo la Repubblica, cioè Catilina sarebbe il buono. Però noi abbiamo in testa la Pax Augustea, dopo Augusto era proprio uno di quelli che con le spie andava d'accordissimo, perché lui voleva sapere tutto quello che diceva il popolo di lui. Voglio morire nel mio letto a 18 anni, disse a Marcantonio. Io voglio morire, morirò nel mio letto. Infatti Marcantonio non è morto nel suo letto, è morto perché è andato dietro a tutto quel discorso di crea un regno con me, Cleopatra. Ecco, quindi insomma si potrebbe fare una conferenza solo sullo spionaggio romano. Grazie Marco, grazie anche a Piccolo Piano, grazie all'attrice Vanessa Vincenzi, grazie anche a Gerardo Zacchino. Ci ha visto anche piacere, la biblioteca chiaramente promuove i libri, no? Quindi siamo sempre contenti di avere questi primi stimoli per poi approfondire. Mi veniva in mente quando ti ascoltavo che Casanova è venuto a Bolzano e c'è un bellissimo libro di Sandro Marella, Recita su Bolzano. È vero. Con la recitazione di Bolzano, dove si vede come arriva a Casanova, è romanzato, però insomma è interessante la ricostruzione di quel periodo e soprattutto del personaggio e le sue tresche, trame, pensieri che si faceva. E poi un altro libro bello da consigliare, da leggere, è La Stasi del Lavello. Come la Stasi spiava tutti i cittadini, come venivano spiati i cittadini in quel periodo, insomma era impossibile sfuggire. Insomma, e comunque siamo anche noi vittime, no? di questo spionaggio, a volte anche becero, perché se penso che ieri l'ASL, la città di Empoli, mi sembra, ha dovuto denunciare i noti perché un'infermiera aveva scoperto le docce. Sì, che c'erano le telecamere. Collegata con un monitor del personale esterno che ha detto la sicurezza. Insomma, la nostra privacy poi non sono segreti di Stato, perché insomma. Però c'è anche la privacy. Che in effetti vengono violati per bene, comunque di libri su spie anche noi ce ne abbiamo tantissimi, quanti ne volete, e quindi possiamo dare libero sfogo. Grazie ancora.